che non c'è tempo per dirtelo, mentre tutto cade sopra noi. Lo so, mi pentirò, ma tacere è stupido. Le parole in pezzi non aiutano. Riuscire a non cadere non è facile, riuscire a dirti che per me sei molto di più. Riuscire a fare male non è difficile, basta lasciarsi tutto indietro e non voltarsi più. E bruci ancora, consumi le mie vene, mi spezzi la voce, ma fingo di star bene. Un giorno il tempo ti fermerà d'incanto, saremo in armi su un cielo troppo spento. Favole, ma resto immobile, affermo immagine, senza scordare quello che non ho di te. Riuscire a non cadere non è facile, riuscire a dirti che per me sei molto di più. Tornare a far l'amore per poi distruggersi e ritrovarsi nuovamente soli a piangere. Ancora consumi le mie vene, mi spezzi la voce, ma fingo di star bene. Un giorno il tempo ti fermerà di incanto, saremo inermi su un cielo troppo spento. Ancora consumi le